Buonasera, bentrovati e bentrovate a Entropia Massima. Questo lunedì facciamo il tema delle tecnologie. Sapete, quest'anno stiamo portando avanti quello dell'intelligenza artificiale e anche oggi quindi ci sarà una puntata su questo tema che approfondiremo con un amico che ci è tornato a trovare. Eccomi qua, buonasera a tutti e a tutte, Carlo dalle ore di religione. Già, le ore di religione. Allora, chiaramente per il pubblico che non è abituato a, diciamo, anche all'alta trasmissione, ricordiamo. Il venerdì. Alle 18:30, tutte le settimane, abbiamo questa, diciamo, passeggiata nel mondo della teologia estrema. Esatto, e quindi da lì, insomma, abbiamo preso lo spunto per parlare, per fare una puntata insieme, no? Può sembrare curioso mescolare questo alla tecnologia, invece con l'avvento dell'intelligenza artificiale questa prospettiva diventa interessante, quantomeno, no? Da approfondire moltissimo, anche per capire che cosa dovrà succedere. Allora, per adesso, come sempre, ci dicono pochissimo, quindi uno le notizie se le deve andare a cercare, no? Però quello che ci dicono è: dovete consumare dati, quindi l'imperativo è produrre dati, mettere dati in rete ogni volta che si fa un'esperienza, subito riportarla alla rete, perché altrimenti quell'esperienza sembrerebbe priva di valore, no? Se non fosse avviata ad altri, quindi se non fosse diventata uno strumento di comunicazione. E quindi questo è un po' lo scenario. E allora una prima riflessione che ci viene da fare è questa: le esperienze personali hanno un senso? Che senso hanno? Ci stanno dicendo che non ce l'hanno, no? Invece noi vogliamo andare un po' più a fondo, capiamo qual è il senso delle esperienze personali e qual è questo senso in un mondo invece dove ci si affanna a dimostrare invece che queste esperienze, se non condivise, non hanno valore. Dunque, grande tema. Io parto da una considerazione, come dire, a caldo proprio. In queste ore, poco, diciamo, nella mattinata, abbiamo dovuto confrontarci con il problema dei porti chiusi. E sembra che partiamo da lontano, ma non è così così come appare. E poi qualcuno si è avviato un piccolissimo dibattito in rete sul fatto che appunto qualcuno ha sollevato il problema abbastanza acutamente, cogliendo proprio, come dire, uno degli aspetti di questo che tu hai appena ricordato, cioè che se queste navi, invece che piene di neri affamati, deturpati da violenze incredibili, guerre, fossero cariche di gattini, ci sarebbe una sollevazione mondiale in rete per accogliere, diciamo, questo bastimento carico di, come si diceva nel gioco. Che poi nella rete i gattini hanno un senso anche di scherno, perché si vuol dire, no, che un sito però sono mostra critici. I gattini sono i critici della rete. Adesso arriviamo. Adesso c'è. Però perché c'è tutto. Diciamo che questo paragone è stato veramente importante anche per quest'altro significato. Certo, io adesso questo volevo dire, nel senso che parallelamente a questo, io ieri con dei miei colleghi biologi stiamo seguendo, così per divertimento, perché anche noi ogni tanto ci divertiamo e quindi che dedichiamo la vita così allo studio di queste cose così complicate, insomma, ma no. E siamo andati a vedere Jurassic Park, anzi World 2, nel quale c'è lo stesso tema, che è abbastanza interessante per un prodotto globale di Hollywood da 260 milioni di dollari, dove però il tema è proprio questo, no? L'isola dove sono confinati i dinosauri dell'episodio precedente sta esplodendo perché c'è un vulcano improvvisamente così tornato a vivere, e bisogna porsi il problema: li salviamo o no i dinosauri, come i panda e i gattini? Quindi e anche lì, insomma, c'è una nave carica di dinosauri che li salva. Poi vabbè, la storia chiaramente ha tutto un altro, cioè ha una sua, un suo sviluppo, perché è un chiaro un prodotto, come dire, di fantascienza, ma il tema no, è lo stesso. Allora, qual è il rapporto, diciamo, che noi abbiamo torno ai gattini? Dei gattini, ovviamente la sollevazione è quella del mondo occidentale, ma perché? Diciamo mondo occidentale, no, mondo industrializzato, ecco, dove ci sono determinate condizioni di vita, il benessere. Questa cosa è già successa, perché io poi ci riflettevo e allora ho detto, ecco, voglio solo fare una notazione un pochino più profonda, che non ho letto sui giornali, ma perché i giornali fanno parte di questo eterno presente, quindi diciamo l'approfondimento è raro, e quando c'è non è molto seguito, perché richiede più di 3 minuti di lettura, e quindi abbiamo visto che adesso sono le pagine, all'inizio c'è scritto quanto ci vuole a leggere. Esatto, quindi tu vieni, stai tranquillo, guarda, non ti dobbiamo più di 3 minuti. Non più di 3 minuti. Ed è questo abbastanza preoccupante. Ma quindi invece l'approfondimento, io molto rapidamente dico, chi è che si è inventato i gattini e i cagnolini? Gli inglesi nel XIX secolo, cioè sono loro che li hanno inventati, ma proprio fisicamente, perché non esistevano le specie, e qui ecco che entra la biologia, l'antropologia, l'umano e la sua vita. Appunto, le specie di gatti e cani, che sono, come dire, gli animali da compagnia per antonomasia un po' ovunque, perché uno dei gattini più famosi della rete è giapponese, quindi insomma si è arrivati, ovviamente, anche se l'origine ovviamente di questo culto antichissimo, che addirittura veniva così appunto divinizzato, è nell'Egitto. Noi troviamo gatti imbalsamati, e il gatto ovviamente, insomma, è centrale, ma perché c'erano i topi nei granai e quindi questa tradizione. E allora ecco la domesticazione. Ma appunto la selezione dei gatti è passata attraverso un processo in cui l'uomo non ha messo mano con una certa coscienza, di cui parleremo dopo, ma appunto attraverso una selezione, diciamo, paranaturale, in cui la convivenza comunque ha prodotto una mutazione nel gatto, che è diventato domestico da quello che è appunto il gatto selvatico, che ancora esiste, che è poco più grande, ma assomiglia molto ai nostri gatti, quelli strisciati, che si vedono anche qui a Roma tanti a Piazza Argentina, insomma, dentro oppure alla Piramide, dove c'è una grande comunità con delle gattare, che sono delle figure proprio, no? Allora questi gatti sono passati attraverso un lungo cammino in cui si sono domesticati, ci sono state delle evoluzioni sicuramente, ma mai quanto con la consapevolezza che nel XIX secolo si cominciava ad avere nel mescolare appunto determinati incroci per ottenere rapidamente, perché la generazione è molto più breve, quindi In neanche un secolo si è potuto fare quello che noi come umani poi insomma abbiamo fatto in un periodo un po' più lungo, ma in generale insomma è una manipolazione sempre su soggetti, come dire, di carattere inferiore nella filogenesi, diciamo, e nella catena filogenetica degli mammiferi di cui facciamo parte. E anche i cani si sono dimostrati molto più malleabili dal punto di vista genetico, quindi le selezioni, oggi voi potete vedere un alano che è alto anche 90 centimetri al garrese, e un chihuahua che sta nella vostra mano. Sembra strano, ma sono lo stesso animale, e cioè in comune loro hanno un lupo, delle volpi, insomma, varie, il lupo principalmente. E quindi, mentre il gatto è rimasto molto simile, un bel gattone non è molto diverso da una tigre, a parte che quella pesa 350 kg, però insomma si somigliano molto, varia appunto il mantello per motivi mimetici. Questo ha una spiegazione di cui non ci occupiamo, ma quello che volevo dire appunto è che nella manipolazione del popolo inglese è perché fanno questo? È perché questi vivono alle spalle di un impero immenso nell'Ottocento, che si sta espandendo, siamo nell'età vittoriana, in cui in Inghilterra c'è un livello di benessere altissimo, e come già gli antichi notavano, la noia, che è, come dire, il male più mortale, diciamo, del ricco, del benestante, perché così, specialmente perché vive di rendita, insomma, con terre infinite, castelli. E che cosa si fa? Cosa si inventano gli inglesi? Si producono questi prodotti cani, gatti e cavalli, perché loro sono quelli che fanno i grandi puro sangue, le grandi corse, sono loro, per un piacere personale, per soddisfare, prego. Allora, ci interrompiamo un attimo, c'è una corrispondenza importante. Ecco, sei in onda. Stiamo bloccando un po' la strada, l'intanto è rimanere qui. La nave sappiamo che è ancora a largo delle coste italiane e non la fanno attraccare, non hanno acqua e non hanno cibo. E noi stiamo cercando di mostrare un minimo di solidarietà. L'invito è a venire tutti e tutti qui a raggiungerci a Porta Pia davanti al Ministero. Le guardie si fanno sempre più stronze, ovviamente, appena si esce un attimo fuori dai canoni, ma non si può più sopportare oltre questa situazione. Venite tutti e tutti qui. Grazie, allora, grazie alla compagna. Sì, assolutamente rinnoviamo l'invito ad aggiungersi a questa manifestazione. Torniamo adesso però in diretta con la puntata di Entropia Massima, quindi stavamo appunto riprendiamo il filo sui gattini, che vengono inventati nelle mille razze e poi tutti conoscono benissimo che anche l'invenzione delle mostre feline, canine nei piccoli villaggi dell'Inghilterra sono proprio fenomeni che poi sono diffusi e che ancora oggi, ovviamente, specialmente nel mondo anglosassone, ma in generale hanno preso piede. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che mentre questa popolazione benestante selezionava nelle sue campagne questi animali sempre più perfezionati per le funzioni o bellezza, oppure, ecco, nel caso del cane, la caccia a vari livelli, la pesca e poi ovviamente i cavalli, questa alta borghesia, questa nobiltà viveva ovviamente in un contesto in cui non c'erano sbarchi, perché sbarcavano loro per controllare i porti nel mondo, in questo che è il più grande impero coloniale che l'umanità abbia mai visto e che era, come diciamo, non tramontava mai il sole. Sto parlando appunto dell'epoca vittoriana e poco anche dopo, in cui mentre si coccolavano questi animaletti, l'esercito inglese bastonava a sangue oppure sparava sulle rivolte, ad esempio in India o in altri luoghi dove ovviamente c'era una presenza di questo dominio, di cui le conseguenze di tutto questo scenario, che poi nella prima guerra mondiale troveranno senso, sono ancora oggi questi sbarchi, ora in questo direzione opposta dalle navi che andavano lì, e dentro ci sono queste antiche persone, discendenti che prima appunto bastonavamo, che abbiamo invaso, ma invece contemporaneamente noi abbiamo creato una grande famiglia allargata dove non ci sono più gli umani ma anche i gattini. Insomma, sono due secoli che i gattini sono parte di noi, ecco perché c'è questa propensione a scegliere a ipotizzare che se fosse stata una nave carica di gattini sarebbe, perché quelli sono visti nella nostra ormai cultura come la famiglia, non è alterità, e quindi, come dire, in qualche modo è vera questa cosa ed è appunto inquietante. Tutto questo avviene in questo scambio continuo che dicevi tu, dove non c'è nessuna appunto riflessione su questo, si fa e basta. E allora andiamo a vedere l'altra cosa, i gattini, che vuol dire? Fotografie o piccoli video, ma in particolare fotografie, gattini dico adesso per sintetizzare, ma in realtà fotografie. La fotografia è un esserci, è proprio l'esistere. È un piano di autorappresentazione estremo, immediato, qui ed ora, assoluto, perché non c'è niente, non c'è pensiero, si scatta la pizza che si sta mangiando e si manda online, sto mangiando la pizza, perché io dico questo? Ecco, perché questo mondo di dati, questa circolazione infinita nella quale siamo immersi, intanto tutto il mare magnum della rete è a disposizione neutra, perché non emette giudizi, è lì perché siamo noi che immettiamo questi dati, e c'è veramente di tutto, dalla foto della pizza a determinati livelli si arriva ai Panama Papers, che è una novità assoluta, perché lì stiamo parlando di tutto il grande problema dei servizi segreti, dello spionaggio, del potere, di una storia complicatissima che è antichissima, in cui le informazioni che riguardano appunto tutta una serie di nodi sono preziosissime, che invece appunto con questa tecnologia anche quello subisce, come dire, c'è un grande problema, uso il termine hacker per dire semplicemente che esiste, come dire, la possibilità di entrare dentro i contenitori, e alcuni, siccome sono segreti, è chiaro che noi non resistiamo di fronte al segreto. La storia della cassaforte è una storia anche quella antichissima, abbiamo tracce di lucchetti e ingranaggi di serrature antichissime, e che via via sono sempre più perfezionate, perché chiaramente ci sono dentro i tesori, e la cassaforte come logica è sempre quella, bisogna che resista per un certo tempo, perché non c'è una cassaforte inviolabile, perché comunque la devo aprire per cui in qualche modo, se la devo aprire, c'è un punto nevralgico, cioè c'è un'uscita, tant'è vero che queste informazioni spesso sono chiuse in un sistema dove non c'è una connessione con la rete, le più segre, le più protette, e anche lì comunque insomma possono esserci rischi che sono quelli che sconfinano nei film di fantascienza. Quindi questo immenso mondo della fotografia, dove l'individuo si fotografa sostanzialmente, perché è questo quello che è l'esistenza. Ecco, quello che vediamo è una incredibile, veramente impensabile nella nostra cultura, paura, terrore della morte. Perché è questo il grande tema. Ma anche su tutto quello di cui noi parliamo spesso, no? Cioè l'idea dell'intelligenza artificiale, di una vita che biologicamente possiamo estendere, la stiamo già provando. Cent'anni fa l'età media era 42 anni, adesso è 83. Insomma, pochissimo tempo. E questo ha un impatto enorme su di noi. E oggi noi vediamo, allora cosa faccio vedere? No, la pizza, ma faccio vedere me al mare, magari ho passato un anno in palestra, ecco, vedete, e tutto quello che noi sappiamo essere questa immensa produzione di miliardi e miliardi di selfie. Sì, il punto è proprio. E quindi è paura della morte. No, quella paura della morte. Quella è morire. Io non voglio morire, ma sto morendo. Quelli sono. E infatti contengono la morte, perché sono miliardi. E quindi io che cosa devo dire per distinguermi dai miliardi? Qualcosa che vada oltre. No? Qualcuno ci pensa, qualcuno non ci pensa, ma chi ci pensa si accorge che non può, diciamo, confondersi mandando la bottiglietta di Coca-Cola che sta bevendo al bar con gli amici. Allora c'è anche la rappresentazione di qualcosa di estremo. Io faccio qualcosa di estremo. Abbiamo i primi morti ormai da 10 anni da selfie. Stiamo viaggiando intorno alle centinaia nel mondo, cioè persone, non solo giovani, che lo fanno. E quindi magari in cima a un grattacielo o sull'orlo di un burrone, ovviamente poi succede quello che succede. E poi quelli da distrazione, cioè chi fa un selfie è come nel caso classico di quello che gli fa la foto, dice andate dietro, dietro, ancora dietro, c'è il burrone, e quelli cadono. Ecco, qui lo fanno da soli, cioè si fanno la fotografia, si distraggono e cascano, coppie che cadono di coreani adulti, capito? Quindi la morte entra in gioco proprio anche realmente. Si muore per una fotografia. Questo è è l'impatto terrificante di questo immenso mare di informazione, dove l'uomo si perde e per esistere fa gesti che non hanno significato, ma il cui significato è un grido di aiuto, ed è solitudine, paura della morte. Questa è una società molto, molto malata. Prego, che abbiamo un contributo musicale? Adesso sì, adesso ci sentiamo un po' di musica, così ci riflettiamo un attimo. Allora, vi faccio ascoltare una versione di Bella Ciao interessante di Manu Chao. Beh, Manu Chao. Esta mañana me he levantado, oh bella chao. mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano, me voy contigo. Oh bella ciao, ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Bella, ciao, bella, ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Oh bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E allora, questa è la canzone del guerrigliero che vogliamo dedicare ai compagni che in questo momento sono in manifestazione, che ci hanno chiamato poco fa e hanno invitato tutti e tutti ad unirsi nella zona di Piazza della Croce Rossa. Bene, ritorniamo allora un attimo in diretta, ci siamo presi questa pausa anche perché il tema è stato molto denso. Adesso riprendiamo un attimo le fila prima di passare al tema, sì, successivo. No, guarda, dico solo una cosa, quello che ho appena detto, questo scenario così molto drammatico, volevo solo dire, curiosamente ma non troppo, anzi è perfettamente descritto dal vostro dalla vostra trasmissione, perché è una forma chiara di entropia massima, cioè quando ci si fotografa e si muore è un collasso, è un'entropia, è un'antropoentropia, ecco, questo volevo dire, mi sembrava perfetto. Sì, favoloso. Favoloso, sì sì, vediamo un po' allora. Continuando, sì, no, a ragionare, certo, di questi temi, c'era venuta una seconda linea di approfondimento sulla coscienza, perché la coscienza da un punto di vista scientifico non è stata ancora definita in modo chiaro, ci sono molti studi, ci sono molti pareri molto diversi tra di loro, per cui in buona sostanza noi non sappiamo nulla della coscienza, sappiamo poco e nulla. No, certo. E però il mondo sta andando avanti a prescindere da questa coscienza, qualunque cosa essa sia, no? Certo. Non sappiamo cos'è, però sappiamo che il mondo va verso algoritmi, va verso lavoro sui dati, va verso su scambi di informazioni digitali, quindi è molto lontano tutto questo dalla coscienza, no? E allora capiamo se ci può servire come strumento. Sì, dunque noi umani abbiamo avuto modo di sperimentare molto tempo fa quello che oggi noi chiamiamo coscienza. Tu hai detto bene, ora io quando dico coscienza, io parlo, usando questo termine, con una certa idea della coscienza, che è abbastanza in comune nella comunità scientifica che io frequento e che purtroppo è molto diversa da quello che è il senso comune al di fuori di questa comunità scientifica, perché è una parola molto molto molto complessa. Ma insomma, ora io la sto usando nel senso comune. Ecco, questo senso comune è comunque nuovo per noi tutti qui nel nostro mondo presente dell'ultimo secolo e in particolare degli ultimi 30 anni. Vediamo perché, ma soprattutto andiamo a vedere che cosa è successo prima. Dicevo, noi abbiamo avuto cognizione appunto di questo oggetto che non abbiamo ben identificato e che abbiamo cominciato a indagare. Quando questo è avvenuto nella forma più raffinata, e lo sappiamo bene, è nella Grecia classica, nella quale però voglio sottolineare una cosa molto importante. Noi oggi, quando parliamo di coscienza, parliamo anche di questo oggetto che ha a che fare con un'idea precisa del nostro corpo, dove nel nostro corpo noi collochiamo la sensazione del sentire attraverso i nostri sensi nel cervello. Ecco, il cervello fino a due o tre secoli fa era un termosifone, anzi uno scambiatore di calore, perché invece la sede era nel mondo dei greci erano i polmoni. Quindi a noi oggi fa un po' sorridere pensare che nei polmoni vi fosse quello che per noi oggi è nel cervello, ma non ci deve far sorridere, perché invece questa cosa ha a che fare con le origini che dicevo, e cioè il momento in cui questo corpo dell'Homo sapiens veniva visto morire, e vedete che questo è tema centrale, e quindi il respiro e quindi il movimento del petto si interrompeva, e quindi vedete che lì nel petto che sale e scende quando respiriamo ci deve essere quello che ci dà senso, perché se ne va. Quando il corpo non si muove più, io parlo di cacciatori e raccoglitori che prendono atto di questo, non sanno cosa è successo, ma si accorgono che uno di loro, quando a un certo punto cade perché è ferito, a un certo punto questo corpo non si muove più, il petto, e quindi se n'è andato qualcosa. E nel corso di questo lungo cammino, migliaia e migliaia di anni, i greci, che risentono di questa cultura, parliamo di 2500 anni fa, anche loro, ecco, quello è il pneuma, da cui l'anima. E questo rapporto con l'anima, con il pneuma e quindi con il respiro, e che ci fa credere per migliaia di anni che i polmoni fossero il luogo dell'esperienza, del sentire, ci pone il problema: chi è che sente l'essere? Che cos'è l'essere? Qui tutto il problema è noto, perché apre lo scenario della metafisica. La domanda dell'essere è centrale, ovviamente in Parmenide, ma in realtà in tutta la filosofia classica, e si produce già una dicotomia immediatamente, che durerà per tutta la nostra storia, anche se la linea, diciamo, parallela sarà sopita, che è quella materialista, è quella di Democrito, quella degli atomi, e quella del pensare, che probabilmente non dentro non c'è niente che poi venga da fuori, deve essere tutto dentro, deve essere il corpo stesso che è fatto in un certo modo che produce le cose che siamo, e cioè il soggetto e il sentire. Però questa linea sarà minoritaria, anche perché vince il sostanzialmente Platone, a cui per tutto il nostro lungo cammino di cultura occidentale noi, come qualcuno ha detto, insomma, faremo delle ampie glosse a tutto il suo pensiero, e che producono i grandi, ovviamente, filosofi della tradizione occidentale. Ora io non ho tempo e quindi non lo farò, ma accenno solo al fatto che questa cosa accade anche in Asia, ha una strada, segue strade diverse, ma l'origine è la stessa, perché l'umano è uguale, quindi non respira, dove va? Lì poi posso solo accennare al fatto che la dimensione del ciclo vitale rimane ciclica. Qui poi invece accadono delle cose per cui questo entrare e uscire dell'aria dai polmoni, e quindi della pneuma che si spegne e si riaccende, non ha più questa circolarità. A un certo punto c'è il cortocircuito sostanzialmente giudaico-cristiano, che distribuirà su un asse orizzontale un inizio e una fine, con un punto centrale in cui le domande sull'essere sono risolte dalla rivelazione. E quindi è Dio che viene, che è il Logos, infatti, e che ci dice la verità, che cosa siamo, dove andiamo. Funziona per un po', e funziona appunto tale che noi ancora contiamo prima e dopo questa rivelazione. Allora E questa è la linearità. Di là la circolarità ovviamente invece ritorna. Ma cosa era successo? Perché questo nodo giudaico-cristiano? La coscienza, il sentirsi e il parlare con se stessi, l'introspezione, aveva a che fare con il sogno, anche a occhi aperti, nel senso il pensiero astratto, che però era un pensiero mitico, inevitabilmente, perché immerso in questo mondo prescientifico. I greci la fondano la scienza, ma la fondano, poi bisogna aspettare 2500 anni per arrivare a quella nostra, che è molto molto molto articolata e complessa, perché si è liberata grazie alla speculazione, diciamo, di tutta una serie di problemi che non sono stati superati, ma sono stati accantonati, in particolare la metafisica. Ma fino a quel momento, quindi fino al Novecento, tutto questo ancora ha funzionato. E allora questo scenario dove appunto la coscienza ha origine nel mondo classico è collegata alle origini appunto con il parlare e il sentire le voci degli dèi. A un certo punto c'è una cosa molto importante, che questo pensiero, come ho detto anche altre volte nelle trasmissioni mie, diciamo al venerdì, Plutarco, che è un greco ed è uno dei massimi intellettuali del suo tempo, più o meno è coevo alla vicenda del Cristo storico, ecco, quindi insomma, mentre accade quello che accade in quelle terre, tra il primo e il secondo secolo, quindi Paolo, tutta la nostra storia giudaico-cristiana da un punto di vista storico, non stiamo parlando della fede o della teologia, mentre accadono quei fatti, Plutarco in uno dei suoi scritti parla della morte di Dio. E voi direte, com'è possibile? Ma non era Nietzsche? Sì, appunto, però già Plutarco in questo testo parla della morte del dio Pan, cioè gli dèi non parlano più all'uomo, dice. Questo è un evento importantissimo e questa è la rottura del rapporto con l'esterno, con l'interno-esterno della nostra coscienza, e quindi la acquisizione totale, diciamo, da parte dell'umano per la prima volta di una dimensione totalmente interiore della coscienza. Non, e questo che dice Plutarco, la morte di Dio, l'uomo non parla più con Dio. È un racconto di un navigante, che lo trovate anche in rete, che sente questa voce. Quella è l'ultima volta. E poi, attraverso un lungo processo, siccome è un filologo Nietzsche, e tra l'altro la sua tesi di dottorato è proprio sull'età classica, e quindi conosce benissimo quel mondo, riannuncerà che Dio è morto per motivi, diciamo, un po' più complessi, perché quello è un annuncio intuitivo di Plutarco, e di nuovo ecco che, e questa morte di Dio è l'assoluta dimensione interiore, cioè noi a questo punto non abbiamo più niente a che fare con neanche il nuovo Dio che è rivelato mentre avviene questo discorso di Plutarco, ma anche quello l'abbiamo smascherato, perché è un antropomorfo ed è un inganno della nostra, e allora la nostra coscienza è una cosa nuova da oggi. Allora ci dobbiamo ricollegare? Sì, c'è un aggiornamento che vogliamo darvi. Allora, questa manifestazione Umanità Aperta, Frontiere Aperte, abbiamo poco fa sentito l'intervento della compagna, ci sono state nel frattempo delle piccole scaramucce con la polizia, ma i compagni e le compagne sono determinate a restare lì e anche a fare assemblea, e quindi c'è un invito a tutti e tutte coloro che ci ascoltano in questo momento ad andare a Porta Pia per unirsi ai compagni che sono lì presenti alla manifestazione Umanità Aperta, Frontiere Aperte. Ecco, ci scusino insomma anche gli ascoltatori se facciamo un po' di breaking news, come sì, si dice. Però ecco, la situazione è tale. Le radio sono questo, Certo, questo è il siamo, lo scopo siamo primario. Disponibili, certo. E quindi dicevo, allora, questa dimensione della coscienza passa attraverso questa rottura, una fase anteriore di questi polmoni vitali, il pneuma, il dialogo col divino, l'umano parla con gli dèi, gli oracoli, no? Si ascoltano, cioè gli dèi parlano con l'umano. A un certo punto qual è la rottura giudaico-cristiana? Che il Dio è diventato uno, ha parlato per una volta e mai più, e quindi si apre un nuovo scenario. Le cose poi ovviamente saranno complesse, ma questo, perché non tutti accettano questa cosa e quindi si continua, però ecco, il misticismo dei santi medievali è totalmente diverso dalla dimensione, diciamo, del parlare con gli dèi, che, di cui ho detto prima quando alludevo al mondo classico. Uno degli snodi abbastanza tra quelli che tra tutto questo percorso, perché non è ovviamente una visione grossolana quella che tutto quello che ha detto Platone poi è diventato solo argomento di glosse, è un po', è molto grossolana. Tant'è vero che insomma i passi avanti sull'umano, sul senso della nostra esistenza e sulla sua collocazione nella natura e le sue relazioni, come funzioniamo, viene scandagliato da tanti personaggi. Uno dei nodi centrali che tutti conoscono, ecco perché lo evoco, è Cartesio, perché Cartesio a un certo punto sulla mente, sul corpo, fa una riflessione e pensa di avere trovato una buona soluzione che tutti poi noi ricordiamo nel cogito ergo sum, cioè penso, quindi sono. Ecco, quindi la coscienza di essere è perché io penso di essere. Se penso di essere vuol dire che sono, se sento di essere, se mi sento, sono. Questo nodo che verrà dibattuto ovviamente negli autori successivi, che poi arriva ovviamente a Hegel, il quale lo mette all'interno di un discorso che è quello dello spirito, ancora vedete è Geist, si indice in tedesco, che è poi il pneuma, solo che non è più un pneuma come era partito al tempo dei presocratici, ma è se faccio un esempio classico, insomma, poi qui siamo nella tradizione scientifica e funziona bene perché i nostri ascoltatori secondo me sono tutti fan di Star Trek. Nel primo film, quello del 79, The Movie si chiama, tutti ricorderanno che c'è un oggetto che cattura l'equipaggio dell'Enterprise e si scoprirà alla fine che questo oggetto è il Voyager, solo che dopo 500 anni il Voyager ha acquisito tutta una conoscenza nel suo viaggio nell'universo e l'ultima domanda è: ma io chi sono? E lì per lì Kirk non sa, perché è la targa dove è scritto Voyager è oscurata e si legge Viger, e quindi lui infatti diceva Viger con una voce metallica e voleva sapere, e lui sostanzialmente scopre raschiando e dice: ma questo è il Voyager. E quindi che succede? Che il creatore, che è l'umano, si trova davanti a questa macchina che ha accumulato questa, è diventata una cosa gigantesca, loro entrano dentro. Rivedetelo perché è molto interessante, poi è proprio molto legato a questo discorso ed è di Robert Wise, quindi un grandissimo autore di fantascienza. Ecco, in qualche modo quel pneuma originario nel cammino di questi 2500 anni ha proprio assorbito tutta la conoscenza umana, sta lì il nocciolo, no? E però a un certo punto, quando arriva Hegel, diventa il Geist, che però è una cosa completamente diversa, perché Hegel ne parla quando vede Napoleone che è venuto da Iena e dice: ho sentito lo spirito della storia, perché Hegel tenta di fare un discorso post-spinoziano in cui, diciamo, si trascende la teologia antropomorfa molto infantile del Dio con la barba, il figlio, la vergine, insomma, che chiaramente molto prima di oggi è stata dagli intellettuali, come dire, smascherata. Poi ci vogliono 400 anni perché tutti, diciamo, o perlomeno una massa ne prenda consapevolezza, però ecco appunto coscienza. E allora a quel punto vediamo che questa visione teologica crolla, ma rimane comunque il problema della trascendenza, del soprannaturale, e quindi Hegel non riesce poi a risolvere questo, perché crea una dimensione paralaica, ma dentro comunque una visione teologica in qualche modo, questo spirito della storia. E Marx, che non a caso fa la sua tesi sui materialisti, quelli che avevano trovato l'atomo, e dice: no, un momento, bisogna rimanere ancorati alla materia. Siamo negli anni della nascita del positivismo, la scienza sembra rispondere a tutto e quindi la coscienza deve essere qualcosa di materiale. Poi il positivismo andrà in crisi perché ha esagerato, ha sopravvalutato se stesso, ma invece più tardi, facendo ammenda, perché noi non siamo, diciamo, lo scienziato non ha fede, non ha una religione, è disposto a mettere a critica radicale le proprie teorie, le affermazioni, cosa che appunto è avvenuta, e quindi anche tutta la scienza è falsificabile, ma questo ci permette di acquisire conoscenza. Quindi oggi che cos'è la coscienza? Ma per tutti quanti quelli che ci ascoltano, e milioni di persone, miliardi nel mondo, quello che dice la scienza dagli ultimi 20 anni è un mistero, perché tutti ancora siamo legati a quel pneuma, forse ecco tutti più o meno sanno che il cervello, tranne probabilmente qualche popolazione, diciamo, nativa, che ha ancora le sue credenze, che il cervello sia insomma la sede del pensiero, anche perché nel frattempo noi abbiamo imparato la lettura interiore tutti quanti, il pensare in un certo modo, e poi l'impatto di Freud, che in qualche modo con l'inconscio ha cercato di lavorare su una coscienza dentro di noi, comunque frutto delle esperienze. Lui dice: se un bambino ha subito un trauma, allora, quindi quella cosa gli si va a mettere dentro, in una cosa di torta a strati, no? L'inconscio, cioè, c'è il famoso disegno del pescatore con l'acqua che sarebbe, e poi sotto la profondità. Oggi noi abbiamo, tu dicevi giustamente, non sappiamo, no, non lo sappiamo, ma stiamo avviando le nostre ricerche su una strada abbastanza interessante, che è quella del tenere conto della meccanica quantistica. Perché quella meccanica che funziona in qualche modo, anche se non la vediamo nella nostra macro dimensione, e che mette in discussione lo spazio-tempo, quindi anche Einstein, nella sua applicazione materiale, però esiste. E allora forse dentro il nostro cervello c'è qualcosa che è connesso con la fisica quantistica, che fa funzionare il rapporto elettrochimico con cui il nostro cervello, fatto di 38 miliardi di neuroni, le connessioni che ci permettono di essere quello che siamo. Ma, e qui si apre tutto il problema dell'intelligenza artificiale, ci portiamo sempre dietro tutto questo, cioè noi anche oggi siamo arrivati a questo grazie a tutto quello che abbiamo fatto prima. Allora ecco che qui si apre un'altra domanda, un'altra questione, ma penso che adesso magari abbiamo un secondo contributo. No, non ce l'abbiamo. No, più che altro possiamo prenderci un'altra pausa musicale, così appunto. L'altra questione la... appunto, quello dicevo, un contributo, esatto. No, scusate, volevo dire una pausa musicale, certo. No, il servizio radio. E allora facciamo un'altra canzone in una versione non originale, un pezzo di Gaber interpretato da Daniele Silvestri. Non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma penso al fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente. E allora, dopo questa breve pausa musicale, torniamo in diretta e andiamo, diciamo, al terzo tema che ci eravamo detti di approfondire, e quindi il discorso sugli algoritmi non coscienti, no? Se algoritmi non coscienti, diciamo, che ruolo possono avere, no? Sì. Nel proseguo della storia dell'umanità. E che cosa accadrà quando questi organi, diciamo, cominceranno a fare cose impreviste? Dunque, allora, qui ci porta a questo discorso che avevamo appena, poco prima, tratteggiato. Prima di procedere, volevo solo ricollegare